pensieri prendono il volo con un evento che non è solo. Io non posso di certo sperare se lo nascondo nel mondo del cuore. Chiudo la porta al presente, spaziando nella mia mente. Io non mi sento di dare segni tangibili del mio dolore. Reazione A, reazione B, introspezione, semplice azione, fuori da ogni contaminazione, fuori da ogni contaminazione, fuori da ogni contaminazione. Chiudo la porta al presente, spaziando nella mia mente. Io non mi sento di dare segni tangibili del mio dolore. Reazione A, reazione B, introspezione, semplice azione, fuori da ogni contaminazione, fuori da ogni contaminazione, fuori da ogni contaminazione.